Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Altre vittime nel Mediterraneo a bordo di un barcone hanno perso la vita in 30, forse per asfissia. La nave che li porta approderà in Sicilia domani. Solo nell'ultimo fine settimana sbarcate migliaia di persone. Salvini dice Alfano e Renzi hanno le mani sporche di sangue. E anche l'immigrazione sarà tra i temi del semestre europeo a guida italiana che si apre domani. Il presidente tedesco dice non sia solo un problema del vostro paese. Domani il presidente del Consiglio sarà a Strasburgo all'Europarlamento. Oggi Consiglio dei Ministri dedicato ad un primo esame della riforma della giustizia, ma si dovrebbe anche decidere il luogo di smaltimento del relitto della Costa Concordia. Monta la protesta di artigiani e professionisti per l'obbligo di POS per le operazioni sopra i 30 euro. Il problema sono i costi imposti dalle banche, mentre scatta domani la nuova tassazione sulle rendite finanziarie. Francia-Germania in campo oggi per gli ottavi di finale dei mondiali, i francesi contro la Nigeria e i tedeschi contro l'Algeria. Parte oggi il restauro della Fontana di Trevi, finanziato da Fendi, sarà un cantiere visibile con pareti in plexiglass e passerella per osservare il lavoro. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete potete commentare al 349-238-6666 scrivendomi su Twitter, Simone Spezia, c'è la nostra pagina Facebook, c'è anche l'email effettogiorno@radio24.it. Iniziamo da questa nuova tragedia del mare, come si dice, una tragedia avvenuta ancora al largo delle coste siciliane e che fa contare 30 vittime. Ancora morti nel canale di Sicilia in quella che è un'emergenza senza fine che sta mettendo a dura prova i centri di accoglienza siciliani. Si attende a Pozzallo in provincia di Ragusa l'arrivo del peschereccio trainato dalla nave grecale della Marina che lo ha agganciato stanotte. Portava circa 600 persone, tra loro i 30 cadaveri, morti probabilmente per asfissia o per le esalazioni nocive del motore della carretta del mare. Ma a Pozzallo è emergenza, il sindaco Luigi Ammatuna lancia l'allarme. Non sappiamo dove mettere le salme, dice. Non si sa dove mettere i morti, ma nemmeno dove mettere i vivi. Le navi in arrivo sono due, una è la Chimera con a bordo 353 migranti, il cui arrivo è previsto per le 18 di oggi, mentre l'arrivo del peschereccio con i cadaveri è previsto per domani alle 11. Abbiamo dato la disponibilità per l'arrivo della prima nave, facendo presente che avremmo avuto qualche difficoltà nel gestire la seconda, dice il prefetto di Ragusa, Annunziato Vardè. Un dato per avere l'idea di cosa sta accadendo: sono 5.000 migranti soccorsi dalle navi della Marina Militare impegnate nell'operazione Mare Nostrum nel fine settimana, e il prefetto Vardè rilancia. Ci giungono notizie, dice, che migliaia di migranti sono pronti a partire diretti verso le nostre coste. È il momento di fare in modo che altri porti vengano interessati, e non parlo solo della Sicilia ma di tutta l'Italia. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Questo è il quadro dal punto di vista della cronaca, ci torneremo più avanti, stiamo cercando di raggiungere il sindaco di Pozzallo, naturalmente per lui una giornata molto impegnata, in questo momento non ci sta rispondendo, ci parleremo più avanti. Intanto andiamo al Consiglio dei Ministri di oggi. Sulla giustizia non ci saranno disegni di legge o altri provvedimenti oggi pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Come già fatto con il pacchetto sulla pubblica amministrazione, il governo si limiterà infatti ad esaminare soltanto le linee guida della riforma elaborata dal guardasigilli Orlando, principi sui quali ci sarà poi una consultazione, soltanto alla fine arriveranno i testi veri e propri. L'esecutivo punta così a scongiurare possibili tensioni su una materia delicata proprio nel momento in cui a Palazzo Madama iniziano le votazioni sulla riforma del Senato. A Palazzo Chigi il premier Renzi oggi farà il punto anche sul semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea che si apre domani. Dalla riunione del Consiglio dei Ministri è attesa anche la decisione del governo sul porto che dovrà smaltire il relitto della Costa Concordia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E altre riforme sono quelle istituzionali. Oggi dovrebbe iniziare la votazione al Senato. Tra le tensioni che conosciamo, Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, proprio così Simone, una settimana chiave. Oggi pomeriggio si iniziano a votare gli emendamenti per il nuovo Senato non elettivo in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Il testo è un compromesso, ribadisce il vice segretario PD Deborah Serracchiani a Repubblica, ma le novità non possono essere fermate da Minzolini e Mineo. Vanno portate a casa, ribadisce Serracchiani, il testo è frutto di un lungo confronto. Siamo pronti ancora al confronto con tutti, col gruppo parlamentare PD, con Forza Italia, Italia con Grillo, ma penso che non ci sia più spazio per posizioni che stravolgono il testo. Sulla riduzione poi del numero dei deputati, presentata proprio dal PD, Serracchiani risponde: non ci stiamo occupando della riforma della Camera. Contesta poi Vannino Chiti l'affermazione che il modello proposto dal governo sia quello tedesco. In quello tedesco, dice il dissidente PD, il Senato non è elettivo, ma la Camera viene eletta con proporzionale sbarramento al 5%. Per me, spiega Chiti, l'alternativa è l'elezione diretta dei senatori in concomitanza con quella dei consigli regionali. In materie così delicate bisogna muoversi evitando slogan approssimativi. Come puoi capire, Simone, nel PD è ancora scontro. Il Movimento 5 Stelle invece propone, per bocca di Luigi Di Maio, un nuovo incontro giovedì con Renzi sulla legge elettorale, e sempre giovedì Silvio Berlusconi riunisce i suoi a Roma. Ma pesa l'attesa per la sentenza d'appello del processo Ruby. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Siamo all'economia, innanzitutto con i dati sull'inflazione. La stima è provvisoria, ma considerati i precedenti sa molto di definitiva. L'andamento annuo dell'inflazione si ferma allo 0,3% dallo 0,5 di maggio, il livello più basso da quasi 5 anni. Su base mensile, l'indice è in crescita dello 0,1%. La colpa, se così possiamo dire, è imputabile ai prodotti alimentari non lavorati, tutto ciò che è fresco, per intenderci, dalla frutta al pesce. I prezzi in questo caso sono diminuiti dello 0,6%, segnando il livello più basso da settembre 97. Contribuisce, ma in misura minore, anche la frenata della crescita dei prezzi degli alimentari lavorati, dei beni energetici non regolamentati e dei servizi relativi all'abitazione. Insomma, il carrello della spesa non si muove. L'aumento mensile dell'indice invece è da ricondurre principalmente ai rialzi, su cui incidono fattori di natura stagionale, dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti. Prima stima flash anche per la zona euro. Secondo Eurostat, l'inflazione a giugno resta stabile rispetto a maggio allo 0,5%. Ad aprile era allo 0,7%. All'Eurotower però non vedono rischi deflazione, al momento almeno. Nel caso, gli strumenti ci sono, ha assicurato più volte il governatore Draghi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questi dati di oggi, mentre per domani è attesa l'entrata in vigore della nuova tassazione sulle rendite finanziarie. Abbiamo deciso di fare un punto su questo, sentendo anche dei gestori. Da domani, come deciso dal governo Renzi, la tassazione sulle rendite finanziarie passerà dal 20 al 26% e colpirà gli interessi maturati su conti correnti bancari e postali, conti deposito, azioni, obbligazioni, dividendi, derivati, fondi comuni, ETF, polizze vita e gestioni patrimoniali. A salvarsi saranno solamente i titoli di Stato, ai quali verrà applicato un prelievo del 12,5%, a patto che non vengano dai cosiddetti paradisi fiscali, i buoni fruttiferi postali e i fondi pensione. La tassa sarà retroattiva. Due quindi le opzioni per chi detiene titoli in portafoglio: vendere le azioni o tempo ancora oggi, o aderire entro il 30 settembre all'affrancamento, ovvero il versamento immediato del 20% sui profitti maturati fino al 30 giugno e del 26% sui guadagni successivi. Io, se vado a vendere delle azioni ad esempio il 2 di luglio e non ho operato l'affrancamento, su tutta la plusvalenza che io vado a realizzare in quel momento avrò un'aliquota già del 26%, ancorché appunto le abbia acquistate in periodi antecedenti. Questa è la spiegazione di Olivia Zonca di BNP Paribas. Attenzione però all'andamento dei mercati, sottolinea Gianluca Verzelli di Banca Akros. Molto, secondo me, in questo momento dipende, ecco, dalle aspettative del mercato. Se io sono convinto che da qui a un anno il valore dei miei titoli sarà più alto, può avere una logica ovviamente aderire all'affrancamento e pagare meno ora. Si tratta di una semplificazione normativa, però, che spesso non convince. Il problema è questo affollamento di imposte, talvolta anche abbastanza, chiamiamole, ininfluenti e soprattutto inutili. Primo, la Tobin Tax è una sorta di aggiunta burocratica, dove io sono convinto che costa di più l'applicazione di quanto lo Stato introita. Secondo aspetto, la semplificazione non riguarda tanto, secondo me, quante imposte ci sono, ma come vengono applicate. È l'opinione di Mario Spreafico, capo investimenti Schroders Italia. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo in studio con noi Gianmarie Delbò del Sole 24 Ore, che un po' si impiccia la lingua il lunedì. Gianmarie, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Per parlare con te invece di questo obbligo di POS per i pagamenti sopra i 30 euro che riguarda da oggi professionisti esercenti di tutti i tipi, Jean-Marie, però un obbligo che no, in questo strano paese non viene considerato tale perché non c'è una sanzione. Sì, in realtà si è parlato molto di questo obbligo che scatterebbe da oggi per i pagamenti sopra i 30 euro. In realtà se ne è parlato molto, ma come dicevi tu, l'obbligo rischia di partire molto depotenziato, perché nel caso in cui io vada da un lavoratore autonomo e trovi che questo non ha il POS, non è possibile applicare una sanzione, almeno al momento. E credo che, visto il fuoco di sbarramento delle categorie fino a questo momento, sarà abbastanza difficile che cambi la linea del governo, linea che è stata confermata dal MEF. Non è detto però che non ci siano conseguenze, diciamo. E che tipo di conseguenze possono essere? Una maggiore attenzione, per così dire, dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di questi soggetti? Diciamo che le conseguenze sono di due tipi. Da un lato ci sono quelle giuridiche, che presuppongono però che chi richiede la prestazione abbia voglia di litigare con il fornitore, perché il fatto di offrire il pagamento con il bancomat e di vederselo rifiutato consente di far scattare tutte le previsioni del codice civile della mora del creditore. Quindi il creditore viene messo in mora, io che non ho pagato non vedo decorrere gli interessi, non ho possibilità di essere citato per danni, anzi posso, volendo, citare per danni l'interlocutore. Certamente però questo ci proietta in un ambito in cui davvero siamo sulla soglia della lite, del contenzioso, e non so quanti ascoltatori abbiano voglia di affrontare un contenzioso che costa molto per 60 euro. Certo. Altro lato è invece il fatto che sicuramente coloro che non forniscono queste modalità di pagamento potrebbero trovarsi in qualche modo penalizzati sul mercato, perché in fondo il pagamento tracciato, soprattutto per una serie di attività, quelle magari dove posso avere degli sconti, fornisce dei vantaggi anche a chi paga. Allora, questo è il quadro delle possibili conseguenze. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa. All'atto del varo del provvedimento il governo si è proposto come sorta di facilitatore con le banche, no? Per cercare di trovare un accordo, perché qual è il problema degli esercenti e dei professionisti? Il fatto che tenere il POS costa e le transazioni costano spesso, cioè vengono fatte pagare, viene fatta pagare ogni singola transazione, e quindi su cifre dai 30 euro in su è chiaro che diventa pesante. Che tempi, cioè, si ha un'idea di che tempi ci possano essere per questo, insomma, per questi incontri, per questo giro di tentativi di accordo? Purtroppo non ancora. Non è escluso che tutti quanti pensassero all'ipotesi di un'ulteriore proroga e quindi, come dire, i tempi siano stati lenti, anche perché c'era già stato un primo rinvio. Certamente però il problema dei costi c'è, anche se non deve poi cancellare il fatto che comunque questo sarebbe un passo in avanti significativo. Ecco, forse dove si può giocare, dove si può fare leva, sarebbe nel cercare di dare qualche premio, non tanto in termini di costi, ma quanto in termini di minori controlli, a chi decide di tracciare tutti i pagamenti. E questa è una linea che l'Agenzia delle Entrate, in qualche modo, e il governo anche, hanno cominciato a perseguire, e che forse andrebbe, come dire, continuata con maggiore coraggio. Grazie intanto a Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore per questi chiarimenti. Allora, noi adesso, prima di andare in Ucraina, prima di parlare di mondiali, raccontiamo un po' di questo restauro della Fontana di Trevi. Sentiamo il servizio. Una passeggiata dentro la Fontana di Trevi tra statue, vasche e gruppi marmorei sembrerebbe l'attrazione di un parco di divertimenti, ma non lo è. L'occasione è il restauro della Fontana Simbolo di Roma, una risistemazione del complesso monumentale che non avverrà a porte chiuse ma a vista, trasformandosi in una sorta di show. L'opera è stata circondata da un recinto trasparente fatto di plexiglass, ma non finisce qui. Tra i marmi della fontana è stato costruito un ponte panoramico su cui si potrà passeggiare a piccoli gruppi per vedere da vicino l'opera d'arte parte, mentre i restauratori con pennello alla mano saranno impegnati nei lavori. A finanziare il restauro la Maison di Moda Fendi, che ha messo a disposizione più di 2 milioni di euro. Dopo il Colosseo e la barcaccia di Piazza di Spagna, anche in questo caso sono i privati a venire in soccorso dell'arte. I lavori dovrebbero durare un anno e mezzo, ma gli affezionati del lancio della monetina sono rassicurati. All'interno del cantiere è stata sistemata una piccola vasca destinata proprio a quello. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, vedo nel frattempo che ci arrivano molti sms di ascoltatori che hanno domande naturalmente sulla vicenda del POS. Si tratta soprattutto di professionisti e di partite IVA. Se volete giratecele a effetto giorno a radio24.it e le gireremo ai colleghi del Sole 24 Ore. Intanto io saluto Antonella Scott, che è sempre del Sole 24 Ore, ma come sapete si occupa di esteri, e nella fattispecie l'abbiamo chiamata per cercare di fare un punto sulla situazione in Ucraina. Antonella, buongiorno. Certo, sì, oggi è di nuovo una giornata cruciale per l'Ucraina, perché c'è una vera e propria lotta, con una corsa contro il tempo, perché questa sera scade la tregua che già una volta era stata prorogata dal presidente ucraino Poroshenko, e che però è stata accettata soltanto da una parte dei leader separatisti, quindi di fatto non si è mai smesso del tutto di combattere, tant'è vero che nel fine settimana 5 soldati ucraini sono rimasti uccisi, e nella notte invece un giornalista russo, il terzo in pochi giorni, è stato raggiunto da spari allo stomaco, ferito allo stomaco e morto poi in ospedale. Quindi nuova protesta di Mosca, e questa sera diciamo nella giornata è prevista una seconda telefonata. Già ieri Angela Merkel e il presidente francese Hollande sono stati più di 2 ore al telefono con Putin e con il presidente Poroshenko, per cercare di arrivare a un accordo per prolungare ancora questa, anche se fragile, tregua. Però la richiesta che si fa a Putin è di bloccare veramente, di controllare i confini con l'Ucraina, in modo di bloccare l'afflusso di armi e di miliziani, di mercenari. Quindi questa è la richiesta che Putin entro stasera, sembra un po' appunto difficile che si possa arrivare a dimostrare che anche questo punto dell'accordo e dell'intesa è stato soddisfatto. L'Europa minaccia, anche qui un'altra scadenza, in questo caso di irrigidire ancora le sanzioni. Io ti ringrazio, grazie ad Antonella per questi aggiornamenti, e torneremo più avanti sugli esteri e parleremo di Iraq nella seconda parte della trasmissione. Io intanto saluto Carlo Gente, mi ha raggiunto in studio. Ciao Carlo. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Allora, c'è il traffico, poi parliamo di mondiali. Se dico Italia, cosa ti viene in mente? E se ti dicessi arte, cultura, prodotti tipici, tradizioni, turismo e protagonisti del territorio? Questa è Italia Più, la rivista dei comuni e del territorio che ti porta a conoscere le bellezze del Made in Italy. Italia Più, in distribuzione in mailing diretto con il Sole 24 Ore in tutta Italia. Per ricevere Italia Più in omaggio con la copia del Sole 24 Ore, chiama l'897-97-17. Italia Più è un progetto Publiscoop Group. Siete nel vostro ufficio? Avvicinatevi alla finestra e guardate fuori. Cosa vedete? Probabilmente la stessa cosa che vedete tutti i giorni. Bene, oggi potete allargare i vostri orizzonti. Se siete imprenditori o export manager, per voi ci sono i corsi di formazione ICE. Con oltre 50 anni di esperienza nella formazione e 79 uffici nel mondo, l'agenzia ICE è il vostro partner ideale per sostenervi nello sviluppo internazionale della vostra azienda. Venite su formazioneimprese.ice.it. Scegli Pantera col TH. Scegli l'Italia che compete nel mondo. Vi presenta Strade in diretta. Autosole si incontrano code di 3 km dopo un incidente tra Barberino di Mugello e Ronco Bilaccio verso Bologna. Si resta in coda per un incidente anche sulla 8 Milano-Varese verso Varese, tra Arese e Lainate. Altre code ma per lavori sulla 30, Caserta-Salerno verso Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, e sulla 26 dei Trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla 7 Milano-Genova, per carico disperso, sono state chiuse le entrate di Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova si incontra coda tra Albisola e Celle Ligure per lavori dopo un incidente. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Altre vittime nel Mediterraneo. A bordo di un barcone hanno perso la vita in 30, forse per asfissia. La nave che li porta approderà in Sicilia domani. Salvini dice: Alfano e Renzi hanno le mani sporche di sangue. Oggi il Consiglio dei Ministri è dedicato a un primo esame della riforma della giustizia, ma si dovrebbe anche decidere il luogo di smaltimento del relitto della Costa Concordia. Monta la protesta di artigiani e professionisti per l'obbligo di POS per le operazioni sopra i 30 euro. Il problema sono i costi imposti dalle banche. Veniamo a fare un punto sui mondiali. Carlo Genta, di nuovo buongiorno. Ciao. Oggi ciao, dunque in campo Francia e Germania, non l'una contro l'altra naturalmente. No, però l'ipotesi più probabile è che si troveranno una contro l'altra, perché gli ostacoli sono quel che resta del calcio africano, cioè la Nigeria per la Francia si gioca alle 18 e l'Algeria, per molti aspetti sorprendente per la Germania, non sarà facilissima per i tedeschi, secondo me si gioca alle 22, le due vincenti si affronteranno in un quarto di finale che potrebbe essere il vecchio derby d'Europa, cioè Germania-Francia. Intanto ieri altre due partite tiratissime, come questo mondiale ci ha ormai insegnato, dopo il Brasile che soffre le pene dell'inferno e vince ai rigori. Ieri l'Olanda ha battuto il Messico con una rimonta pazzesca, a 4 minuti dalla fine praticamente l'Olanda era fuori, il Messico stava accarezzando un sogno, poi il gol di Snyder, il rigore concesso per fallo su Robben e dunque passa l'Olanda. E la nostra vecchia amica Costa Rica, che conquista un risultato storico, eliminando la Grecia, anche qui pareggi in extremis dei greci a tempo ormai scaduto, supplementari, poi rigori, passa Costa Rica che dunque giocherà con l'Olanda nei quarti di finale, indovina chi era favorita. Vabbè, insomma, nemmeno a dirlo. Nemmeno a dirlo. Grazie Carlo, ti ritroviamo con tutti i convocati alle 14 come sempre, poi per intervenire in diretta ci sarà il numero l'800240024. Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. La prima domanda che le voglio fare riguarda in realtà la stretta attualità, posto che naturalmente domani si apre il semestre europeo a guida italiana, uno dei temi centrali sarà inevitabilmente l'immigrazione. Oggi un'altra tragedia del mare, come viene definita, con una sorta di luogo comune che però rende l'idea, 30 persone morte forse per asfissia dentro un barcone che le stava portando in Italia. L'impressione è che l'Europa da questo punto di vista stia ancora facendo orecchie da mercante. Ma guardi, bisogna procedere subito ad attuare quanto è stato deciso la scorsa settimana. Abbiamo delle conclusioni del Consiglio europeo che indicano chiaramente la necessità di condividere in maniera equa l'onere nella gestione della frontiera del Mediterraneo, di assumerci le responsabilità a livello europeo e non solo italiano per evitare che succedano queste tragedie e per lottare contro il crimine organizzato che provoca queste tragedie. Bisogna lottare contro i trafficanti di esseri umani, questo è indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo. Ci sono delle iniziative nuove, c'è un'apertura del governo francese, per citare solo uno degli stati importanti che fino ad oggi non ha cooperato con l'Italia e che oggi vuole iniziare a cooperare nel Mediterraneo. Bisogna subito passare alla parte operativa di quanto abbiamo deciso. Anche perché abbiamo un'estate in mezzo, nel senso che noi stiamo parlando naturalmente di conclusione del Consiglio europeo, di quello che verrà, di come l'Europa ha intenzione di muoversi. Nel frattempo ci sono luglio e agosto, mesi, luglio, agosto, anche settembre, ottobre per quanto riguarda il Mediterraneo, nei quali mesi nei quali gli sbarchi proseguiranno presumibilmente. Sì, guardi, però attenzione, noi stiamo parlando del Consiglio europeo, noi abbiamo ottenuto quello che gli italiani hanno chiesto per anni, non avevamo mai ottenuto, perché per anni abbiamo detto che volevamo un'assunzione, una condivisione delle responsabilità nel Mediterraneo, per anni avevamo detto che bisogna passare a un ruolo più operativo di Frontex, adesso quello che noi dicevamo è scritto nero su bianco, è un passo avanti e quindi insomma dobbiamo valorizzarlo. Poi giustamente la stagione, ma non è una questione di stagioni, lei ha ragione, sono d'accordo certamente, ma è una questione, il fenomeno dell'immigrazione è lì per durare, non è un fenomeno stagionale, e quindi proprio perché è lì per durare va governato, come tutti i fenomeni che esistono e non esistono solo nello spazio di una stagione. Però un governo europeo, non solo italiano, che deve assumersi le responsabilità. Senta, viene battuta in questi minuti dalle agenzie una dichiarazione del commissario agli affari interni Cecilia Malmström, che dice che l'Europa sta cercando il modo di contribuire maggiormente dal punto di vista finanziario, ma nell'ambito delle risorse esistenti, proprio sul tema dell'immigrazione. Insomma, la sostanza è che non ci sono altri fondi, cioè, se poi vogliamo leggerla fino in fondo questa dichiarazione. Ma guardi, è questione di fondi, ma è soprattutto questione di assunzione di responsabilità nell'azione da parte di quello che esiste, che è l'agenzia Frontex, da parte dei contributi degli altri governi. È a questo che dobbiamo puntare. Ben venga la volontà della Commissione di mobilitare rapidamente tutti i fondi esistenti, e certamente in prospettiva occorrono anche nuove risorse finanziarie, ma nell'immediato bisogna rendere operativa un'azione che sia un'azione veramente europea, cioè di più governi, più stati, anziché solo italiana, anziché quell'unica operazione che noi stiamo portando avanti, che è l'operazione Mare Nostrum, che ha evitato finora tante tragedie che avrebbero altrimenti portato alla morte di decine di migliaia di persone, e ha anche permesso di arrestare più di 220 trafficanti di esseri umani. L'ultima domanda che le voglio fare riguarda la formazione di quello che possiamo definire il prossimo governo europeo, ossia la Commissione europea. Abbiamo scritto, letto in tanti luoghi che insomma la soluzione identificata per quanto riguarda l'Italia sembra essere un'indicazione di Federica Mogherini alla guida della politica estera europea. Si sono addensate su questo molte critiche, sottosegretario, dicendo quella è una poltrona che non conta niente, perché dobbiamo andare alla ricerca di quella poltrona? Posto che la decisione sui nomi non è stata ancora presa e verrà presa il 16 luglio, ci sono però delle certezze che si potrebbero soddisfare leggendosi i trattati europei. Se chi critica la scelta dell'alto rappresentante si prendesse il tempo di leggere i trattati europei, scoprirebbe che l'alto rappresentante è anche il primo vicepresidente della Commissione europea, e cioè chi farà l'alto rappresentante sarà il vero numero due di Jean-Claude Juncker, nuovo presidente della Commissione. Questo vuol dire avere potere di coordinamento su tutto quello che è la dimensione esterna delle politiche importanti, penso all'ambiente, all'energia, all'immigrazione, alle telecomunicazioni, solo per fare quattro riferimenti a questioni di grande interesse dell'Italia. E poi avrà la possibilità di supervisione su tutte le grandi decisioni e le politiche e i dossier importanti dell'Italia, se si organizza in tal senso. E questo certamente è assolutamente trascurato dai commentatori italiani, che un po' improvvisano i loro commenti senza conoscere bene le funzioni, un po' strumentalizzano ben sapendo che le cose non stanno così. Sia l'improvvisazione sia la strumentalizzazione a noi non interessano, le respingiamo, e io credo che quello sarebbe un posto molto, molto rilevante e dal quale si può incidere molto. Grazie a Sandro Gozzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei. Luigi Ammatuna, sindaco di Pozzallo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Quando è previsto l'arrivo della nave che porta i corpi delle 30 persone, forse sono 30, non ne sappiamo esattamente il numero, che sono morte in mare sul barcone? Sì, è prevista per domani a mezzogiorno o primo pomeriggio, mentre oggi pomeriggio alle 16.30 dovrebbe arrivare l'altra nave con 373 persone a bordo per essere sistemati qui al centro di prima accoglienza, che in questi momenti stiamo svuotando per cercare di accogliere queste persone che arrivano. Lo state svuotando come? Cioè dove vengono portati? Allora, noi avevamo 150 migranti qui al centro di prima accoglienza, li stiamo trasferendo all'altro centro che gestiamo noi a Comiso, e quindi lì diventeranno 300, e mentre noi saremo qui pronti per ospitare queste 373 persone. Il problema si crea domani, quando arriveranno 570 persone più i corpi di questi sventurati che hanno perso la vita nel canale di Sicilia. Lei ha detto non abbiamo posto nemmeno per mettere i morti. Sì, noi abbiamo soltanto due celle frigorifere in dotazione all'obitorio, che già sono occupati in occasione di quello sbarco che ci fu quasi un mese fa, quando morirono tre persone. Due le abbiamo sistemate nel nostro obitorio, uno lo abbiamo sistemato ad un in un comune limitrofo al nostro, il sindaco ci ha dato la disponibilità e quindi è stato sistemato lì, quindi non avremmo la possibilità nemmeno di sistemare una sola persona. Io farò appello in queste ore ai miei colleghi sindaci della provincia, del comprensorio, per darmi la possibilità di sistemare negli obitori del comprensorio questi corpi. Senta sindaco, e non avrete più spazio nemmeno per i vivi però? Sì, perché sicuramente 900 persone non le possiamo tenere al centro di prima accoglienza. Il centro è collaudato per 180 persone, metterne 900 diventa problematico, quindi sicuramente questi 375 che arriveranno oggi nel corso della nottata dovranno essere identificati e cercare di farli sistemare in altre strutture. Grazie, grazie a Luigi Amatuna, sindaco di Pozzallo, e saluto l'avvocato Claudio Salvagni. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. È il legale di Massimo Giuseppe Bossetti, accusato e arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio. Allora, avvocato Salvagni, non ho capito bene che cosa è successo questa mattina, perché si era diffusa l'idea che avreste presentato una richiesta di scarcerazione per Bossetti. Questo è avvenuto oppure no? Allora, questa mattina non è stata presentata alcuna richiesta di riesame nei confronti della misura adottata verso i Bossetti, e questo risponde ad una precisa strategia processuale, nel senso che noi come legali abbiamo ovviamente preso contatti con il nostro cliente cercando di scandagliare per quanto ci è possibile ogni possibile meandro nelle sue dichiarazioni. Il Bossetti si è dichiarato innocente sin da subito, ha continuato a sostenere la sua innocenza con forza e anche di fronte alla possibilità che gli abbiamo ovviamente... Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Altre vittime nel Mediterraneo, a bordo di un barcone hanno perso la vita in 30, forse per asfissia. Anche l'immigrazione sarà tra i temi del semestre europeo a guida italiana, parla la commissaria Malmström. Vi daremo più aiuti, ma non ci sono fondi extra. Oggi il Consiglio dei Ministri è dedicato ad un primo esame della riforma della giustizia, si dovrebbe anche decidere il luogo di smaltimento del relitto della Costa Concordia. Monta la protesta di artigiani e professionisti per l'obbligo di POS per le operazioni sopra i 30 euro. Il problema sono i costi imposti dalle banche. Francia e Germania in campo oggi per gli ottavi di finale dei mondiali. I francesi contro la Nigeria, i tedeschi contro l'Algeria. È il momento della borsa. Borse in diretta. La giornata è negativa, FTSE MIB meno 0,68%, FTSE OCHER meno 0,71%, Parigi giù di mezzo punto percentuale, Francoforte lievemente in positivo, più 0,06%, e Londra giù dello 0,27%. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, Milano negativa, mi par di vedere, trainata dalle banche fondamentalmente. Sì, ancora una volta il comparto bancario a pesare sul listino milanese, debole tutto. Il comparto Monte dei Paschi ha imboccato la strada delle vendite mentre era partito in positivo, ora cede il 4%, cede il 4% anche il Banco Popolare, che mette a segno la peggiore performance fra i titoli a maggiore capitalizzazione. Nel fine settimana, in un'intervista al Sole 24 Ore, l'amministratore delegato Saviotti ha annunciato lo stop alla cessione della Bad Bank Release, ma è debole anche la Popolare di Milano, meno 2,6%, Mediobanca meno 2,6%. Questo è il quadro dal punto di vista delle banche. Ultima domanda che ti voglio fare riguarda Enel, che guadagna l'1,77%, è il titolo migliore in assoluto? Sì, è il titolo migliore fra le titoli ad alta capitalizzazione. UBS ha confermato il giudizio di buy alzando il target di prezzo da 4,9 a 5,15 euro. Inoltre, secondo Sole 24 Ore, potrebbe essere valutato uno spin-off di Enersys, che è la società che raggruppa le attività in Sud America da Endesa, che è la controllata spagnola di Enel, e sarebbero anche in arrivo offerte per le attività slovacche valutate a 3 miliardi di euro. Il titolo sale. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Abbiamo recuperato l'avvocato Claudio Salvagni, legale di Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Vorrei capire, avvocato, molto brevemente, su che cosa si baserà la vostra linea di difesa, se ci può dare già un'idea. Allora, come stavo dicendo, sempre in maniera sintetica, abbiamo deciso di non presentare questa istanza di riesame per una precisa strategia processuale, ovvero prendendo le mosse da quello che dice il nostro cliente, che è innocente e che vuole dimostrarlo. Noi preferiamo che tutte le nostre carte vengano giocate in un futuro dibattimento e che arrivino quindi a questo nuovo giudice senza un preventivo vaglio di un altro giudice, quindi con già un bollino sostanzialmente. Questa è brevissimamente la decisione che abbiamo preso, proprio nell'ottica indicataci dal Bossetti. Il Bossetti, ripeto, ha dichiarato la sua innocenza sin dall'inizio, continua a farlo, non desidera scorciatoie processuali, benché noi abbiamo prospettato anche altre possibilità, proprio perché ciò che sembra oggi impossibile... Che possibilità gli avete prospettato? Ma ovviamente le possibilità sono tante, nel senso che già dalle prime emergenze delle perizie si sembrerebbe appunto che la povera Yara sia morta per cause sopraggiunte, e quindi anche processualmente, anche diciamo tecnicamente, ci sarebbero delle strade che possono allontanare, scongiurare la pena più grave, ecco, tanto per essere molto chiari. È chiaro che anche la scelta dei riti, non so, ipotizzo un rito abbreviato che ha una sua premialità, quindi nell'ottica di raggiungere la verità vera, è chiaro che dobbiamo intraprendere la strada più lunga, più difficile, e forse speriamo che ci porti a risultati. Insomma, ad oggi, perché lei dice Bossetti non vuole scorciatoie. Bossetti vuole dimostrare la propria innocenza, ci ha dato il mandato e la fiducia per fare tutto quanto nelle nostre possibilità umane e professionali per raggiungere questo obiettivo. Grazie all'avvocato Claudio Salvagni, legale appunto di Bossetti, come sapete accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. Passiamo all'estero adesso, passiamo a parlare di Iraq. Che cosa è successo? È successo che questa mattina i jihadisti dell'ISIS hanno annunciato quella che hanno definito come la ricostruzione del califfato, regime politico islamico, come sapete, sparito da circa un secolo, che comprende la parte di Iraq che controllano un pezzo della Siria. Saluto Andrea Plebani, che è ricercatore dell'ISPI ed esperto di Iraq. Buongiorno Plebani, benvenuto. Buongiorno. E saluto Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Professore, benvenuto. Buongiorno. Allora, io vorrei capire da Plebani innanzitutto che cosa significa tutto questo, e poi andrò con Vittorio Emanuele Parsi per capire il quadro più generale, perché insomma oggi il governo russo ha inviato degli armamenti al governo iracheno e vorrei capire che ruolo sta cercando di ritagliarsi Putin in un'America, con un'America un po' titubante. Innanzitutto partiamo da Plebani, ci spieghi la strategia dell'ISIS e che cosa sta succedendo in questo momento. Allora, l'ISIS ha cercato di muoversi lungo quella che era la sua dottrina principale, la sua strategia principale. Come dice il nome stesso, l'obiettivo era la creazione di uno Stato islamico che prima doveva nascere in Iraq, e questo era l'obiettivo già nella metà della prima decade degli anni 2000, poi si è esteso anche alla Siria con l'escalation della crisi siriana, ed ora invece velleità globali. Di fatto non si è solo nominata la nascita di un nuovo califfato, ma un califfato senza una dimensione territoriale ben definita. Il passaggio è dallo Stato islamico dell'Iraq e di al-Sham, quindi del Levante, a Stato islamico, con la definizione appunto di Abu Bakr al-Baghdadi come nuovo califfo, quindi come leader dei musulmani. La cosa interessante è che l'obiettivo non è semplicemente i territori siriani e iracheni, ma l'obiettivo è un obiettivo di lungo periodo e su scala globale. L'obiettivo è quello di trasformare l'IS, in questo caso, quindi lo Stato islamico, in un punto di riferimento per l'intera comunità islamica globale. È un obiettivo ovviamente difficilissimo, se non impossibile da raggiungere, ma evidenzia le notevoli capacità acquisite dal gruppo e la sua sfida lanciata non solo all'Occidente, non solo al governo siriano e quello iracheno, ma anche alla dirigenza di Al-Qaeda, che fino ad ora è stata la guida della galassia jihadista a livello internazionale. È quindi una contrapposizione interna su diversi fronti e un tentativo di muoversi oltre, trasformarsi da gruppo di insurrezione a gruppo in grado di controllare il territorio e di amministrarlo. Una sfida tutt'altro che semplice. Allora, grazie intanto a Plebani, che magari torneremo ad interpellare nei prossimi giorni. Rimaniamo con Vittorio Emanuele Parsi, lo ripeto, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano e tra l'altro editorialista del Sole 24 Ore, commentatore del Sole 24 Ore. Allora Parsi, vorrei capire invece come si muovono gli altri, insomma, quelli che non sono il governo iracheno in questo momento, a partire da questa Russia che offre aiuti militari al governo iracheno. Beh, la Russia in quest'ultimo anno e mezzo, e direi proprio a partire da un'altra questione medio orientale collegata, quando, se vi ricordate, grosso modo un anno fa gli Stati Uniti minacciarono di bombardare la Siria, le forze governative in reazione al presunto utilizzo di gas da parte del regime di Assad. Già allora la Russia utilizzò l'incauta uscita americana per capitalizzare un successo a basso prezzo, tutto sommato, e per far tornare a far sentire la sua voce in Siria. Si muove quindi a ricalco degli Stati Uniti, sfruttandone tutte le incertezze, tutte le titubanze, tutte le debolezze, e quello che oggettivamente è un venir meno della presenza americana nel Levante, l'Iraq, la Siria, e sfruttando che cosa in sostanza? Appoggiando quei regimi sciiti che si stanno battendo contro questi movimenti jihadisti che sono tutti sunniti. In qualche modo sta cercando di ricostruire una relazione con quel famoso arco sciita teorizzato dai sunniti stessi, che andava dall'Iraq, dall'Iran all'Iraq, alla Siria fino al Libano. Questa è un po' la sua strategia, ed è una strategia che è motivata non solo, diciamo così, dalla volontà di tornare a essere una potenza di rango e di tornare a giocare un ruolo in Medio Oriente, ma anche legata al fatto che i russi hanno comunque un oggettivo interesse a combattere contro i movimenti fondamentalisti sunniti, i movimenti jihadisti sunniti, perché la popolazione musulmana all'interno della Russia è l'unica che cresce in termini percentuali ed è sempre più rilevante. Quindi in qualche modo c'è un interesse nazionale a fare questo tipo di azione, c'è un interesse strategico. Ci può essere anche, molto brevemente, professore, un interesse energetico di qualche tipo? Beh, lei sa bene che la Russia è un produttore netto di materie energetiche, per cui non tanto quello, quanto piuttosto però il recupero di una posizione che è nei confronti dell'Iran. Io non mi sorprenderei se nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, i russi delineassero una posizione più defilata rispetto a quello che è stato fino adesso il ruolo del quintetto nei confronti dell'Iran e della sua politica nucleare. La ringrazio, grazie a Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano e editorialista e commentatore del Sole 24 Ore. Traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero è stato proclamato ieri, primo giorno di Ramadan, il califfato. Il califfato in questi territori che sono stati strappati dai ribelli tra l'Iraq e la Siria. Non solo, il presidente Vladimir Putin ha inviato degli aerei in Iraq per cercare di contrastare l'avanzata dei ribelli sunniti e sull'Ucraina non ci si mette d'accordo tra Europa, Stati Uniti e Russia. La crisi continua. Proprio sull'Ucraina, qualche giorno fa, da Mosca abbiamo avuto queste dichiarazioni. Europe is trying to push Ukraine to sign this agreement by force. Mi hanno colpito, devo dire, la settimana scorsa, delle dichiarazioni molto aggressive di Sergei Glazier, che è uno dei consiglieri di Putin, parlando della firma tra l'Ucraina e l'Europa, un'adesione preliminare dell'Ucraina al patto economico europeo. Si è scagliato contro l'Europa, contro l'Ucraina, contro Poroshenko. Ha detto che Poroshenko è un nazista, ha detto che l'Ucraina sta firmando questo accordo solo perché è sotto fortissime pressioni dell'Europa, che con la forza la sta obbligando a firmare questo accordo. Ecco, sappiamo che si tratta di propaganda elementare. Lo stesso Vladimir Putin, pensate, persino Putin ha poi preso le distanze da queste dichiarazioni. Ma sono il sintomo di una situazione molto precaria dal punto di vista dell'ordine internazionale, ne parliamo da tempo, che ha un suo parallelo naturalmente in quello che sta capitando in Medio Oriente, soprattutto in Iraq, soprattutto in Siria. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che stanzierà 500 milioni di dollari per addestrare dei sunniti moderati in Siria, ha inviato complessivamente circa 500 soldati di nuovo in Iraq, un po' per proteggere l'ambasciata, ma un po' per aiutare il governo iracheno che traballante non riesce ad uscirne fuori, un governo soprattutto sciita che ha suscitato gli odi dei sunniti. Ecco, vi parlo di queste due situazioni perché entrambe, poi ce ne occupiamo anche dal punto di vista della cronaca, ovviamente facendo l'analisi politica del giorno per giorno, ma perché entrambe hanno una radice comune, una radice che risale a 100 anni fa, quando cadde un ordine mondiale e ci fu la prima guerra mondiale, una guerra che ha cambiato e rivoluzionato il mondo e su cui l'America comincia a riflettere proprio in questi giorni. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano. Fabrizio De André, una canzone che io amo moltissimo, che sono certo che ognuno di voi conosce e ama moltissimo, ve l'ho fatta ascoltare perché il New York Times ha pubblicato una foto di papaveri, una foto di papaveri meravigliosi, un paesaggio bucolico, anzi guardate, vi leggo proprio la didascalia che il New York Times ha messo su questa foto, perché sembra la canzone di Fabrizio De André. Sono papaveri in fiore in mezzo a campi di grano, erano le linee del fronte per la battaglia della Marna in Francia durante la prima guerra mondiale. I killing fields, campi dei morti, sono ora immacolati e bucolici. In questi campi morirono 300.000 soldati. L'osservazione più interessante, devo dire, che fa il New York Times è quella di una sottovalutazione che fecero i leader del tempo, perché non capirono che qualche cosa davvero era cambiato rispetto all'ordine che si era costituito, una pace che durò poi 100 anni, e l'ordine dopo il Consiglio di Vienna. Avevano sottovalutato l'aspetto della potenza economica che era più importante della potenza militare, cioè si dava ancora molto peso alla potenza militare, si credeva che questo sarebbe bastato. Invece la potenza economica ha poi trionfato, e la potenza economica è quella degli Stati Uniti, che entrarono in guerra soltanto nel 1917, ma che riuscirono, grazie alla loro forza straordinaria, a cambiare completamente le sorti della guerra e le sorti del mondo, perché in quel momento è caduto tutto, è crollato l'impero ottomano, è crollato l'impero austro-ungarico, è crollata la Russia degli zar, e in quel momento si sono ridisegnate le mappe che avrebbero dovuto costituire le fondamenta per il nuovo ordine mondiale. Di questa frammentazione del Medio Oriente, nata subito dopo la prima guerra mondiale, pensate, nel 17 ci fu tra l'altro la dichiarazione Balfour che sancì la nascita, il diritto alla nascita dello Stato di Israele, voglio farvi sentire le riflessioni di due importanti autori che hanno scritto libri sulla prima guerra mondiale. Cominciamo con David Fromkin. Three groups of states that emerged in our Middle East, the eternal empires. Ecco, Fromkin dice: il Medio Oriente dei nostri giorni può essere diviso in tre gruppi di stati, gli imperi eterni come Egitto e Persia, che sono sempre stati lì e sempre lo saranno, e di cui nessuno mette in questione la legittimità come stati. Poi ci sono gli stati creati da personaggi locali molto carismatici, come ad esempio la Turchia, creata da Kemal Atatürk, e l'Arabia Saudita da Ibn Saud, e anche in questo caso nessuno mette in discussione la loro esistenza. Poi c'è un terzo gruppo di stati creati dall'impero britannico, come Israele, la Giordania, l'Iraq, e questo, ricordiamolo, risale al momento di massimo splendore dell'impero britannico, che poteva contare solo in Medio Oriente su 1 milione di soldati. Ecco, e qui dice Fromkin che si può fare un parallelo con il monopolio di potere degli Stati Uniti dopo il collasso dell'Unione Sovietica. qui è quando cominciano i guai. Sentiamo Margaret Macmillan, professoressa di storia a Oxford, e devo dire ha scritto un libro meraviglioso, La guerra che ha chiuso tutte le paci, è un libro davvero straordinario perché dà un'interpretazione non solo politica ma anche personale, psicologica dei leader e di come pensavano dietro le quinte. Sentiamola sempre sulla questione medio orientale. That was decided by the British and the French with precious little consultation with anyone else. And the British and the French had done a quiet deal during the First World War. Lo Stato iracheno, dice, è stato creato dagli inglesi e dai francesi senza un vero approfondimento della situazione. Francia e Inghilterra si erano accordati segretamente prima della guerra per dividersi i territori arabi. Il Medio Oriente aveva un'importanza strategica per entrambe le potenze, che se lo sono diviso con l'Inghilterra, che si è presa l'Iraq, mentre la Francia si è presa la Siria e il Libano. Dunque tutto questo per restare sul tema che ho già avviato la settimana scorsa, cioè quanto oggi, nel centenario della Prima Guerra Mondiale, ci troviamo in una situazione in cui abbiamo un ordine apparentemente stabile, l'Europa che prende il premio Nobel per la pace, ma sotto focolai esplosivi in ogni parte del mondo che minacciano la nostra stabilità. Io sono per l'ottimismo, ma non possiamo negare che i paralleli ci siano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Parliamo di centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, parliamo di focolai tragici un po' dappertutto nel mondo. Come sapete, ho fatto varie canzoni pacifiste quando si parlava di Ucraina, e dunque continuo di John Lennon e Yoko Ono, Give Peace a Chance. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto per Effetto Giorno. I ringraziamenti, Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il mio account Twitter, mi trovate, Simone Spezia. Noi ci risentiamo questo pomeriggio dopo il GR delle 17 con Focus Economia. Effetto Giorno torna invece domani alle 13.